tema i più. Attenderò che tu ritorni sul libro lì. Mai più tu riempirai la vita mia di tanto amor. Invano laggiù aspetterò che torni sull'imbrunire pieno di mille profumi. L'angola c'era d'intorno ed è passato un giorno, un triste giorno ancora, così lontano che poi e perché mai i baci miei più non li vuoi. Con i miei baci.